Diritto di Stefano Folli. Bisogna rispettare la magistratura di Palermo. Se ha sentito il bisogno di ottenere la testimonianza del Presidente della Repubblica su un punto del processo relativo alla ipotetica trattativa Stato-mafia, resta il fatto che l'eccezionalità dell'evento, che non ha precedenti, rischia di essere del tutto sproporzionata a quello che in realtà Napolitano potrà dire, cioè sostanzialmente poco o nulla, come egli ha già ribadito al Tribunale siciliano. E non perché al Quirinale siano custoditi chissà quali segreti, ma perché questi misteri con ogni probabilità non esistono. Esiste un po' di clamore mediatico intorno alla convocazione di un Presidente della Repubblica, si offrirà per un momento un palcoscenico alle strumentalizzazioni politiche, ma poi tutto finirà come era cominciato. Resteranno certo le ombre che sono state sollevate forse ad arte, così da gettare un po' di sospetto sull'istituzione. In omaggio al principio che dietro lo Stato democratico si intravede un secondo livello, uno Stato cattivo e nascosto che deve essere svelato. Al contrario, oggi servono istituzioni forti e credibili, non toccate da sospetti e capaci di restituire fiducia agli italiani.